già tremando d'amore. Lei viene qui questa sera, è solo una questione di ore. Spero di non morire vedendola entrare. Potremo restare soli. Ho messo il vino nel frigo, cuoce sul fuoco il sugo. Il macellaio dovrebbe arrivare, dovrebbe portare bistecche e caviale, un dubbio e una sale. Lei verrà o non verrà? Lei verrà o non verrà? Non verrà. Avvicina, avvicina, avvicina.